America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, si è chiusa ieri la visita del Presidente del Consiglio Enrico Letta a New York. Il Presidente del Consiglio è già rientrato in Italia. Sarà una giornata turbolenta, ma una giornata anche che sarà in qualche modo determinata da quello che si è detto ieri all'incontro che abbiamo avuto con lui alla Columbia University. Ci sono tre passaggi chiave che vorrei farvi ascoltare. Il primo riguarda il messaggio, tra virgolette, umiliante che avrebbero lanciato i suoi compagni di coalizione del PDL. Sentiamolo. Mentre ieri parlavo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e rappresentavo l'Italia lì, non rappresentavo me stesso, rappresentavo l'Italia, il fatto che contemporaneamente si siano svolte in Italia attività istituzionali che certamente non hanno aiutato il mio sforzo di rappresentare al meglio l'Italia, lo considero un'umiliazione non mia personale, ma un'umiliazione dell'Italia. Ho chiesto al Capo dello Stato di ricevermi perché andrò dal Capo dello Stato dove voglio insieme al Presidente Napolitano discutere, valutare insieme le modalità con le quali andare a chiedere un chiarimento assolutamente indispensabile, che sarà un chiarimento sia nel governo sia in Parlamento. Secondo messaggio di Letta e in perfetta sintonia con il Presidente della Repubblica: mi farò una doccia, ha detto, e poi lo vado subito a trovare per decidere la linea comune, soprattutto per fare chiarezza, ha detto. Non ci sarà necessariamente una verifica, non ama questo termine il Presidente del Consiglio Letta, ma vuole fare chiarezza con la coalizione, capire se si deve andare avanti o se si deve, come ha detto, buttare tutto a mare, il lavoro che si è fatto finora. La terza dichiarazione, infine. In Italia non c'è alcun colpo di Stato in corso, in Italia c'è lo Stato di diritto, questi sono temi. Insomma, sarebbe contraddittorio, penso, se io venissi qui a raccontare di destinazione Italia e attrarre investimenti se poi contestualmente dovessi raccontare che in Italia è in corso un colpo di Stato o è in corso una lesione dello Stato di diritto. Ecco, il riferimento diretto agli investitori, c'è un filo conduttore in queste tre dichiarazioni. Beh, insomma, non si attacca il Presidente del Consiglio o un Presidente degli Stati Uniti o comunque un capo di Stato che ti rappresenta all'estero nel momento in cui sta cercando di vendere nell'interesse comune il rischio paese, nel momento in cui sta cercando di fare il passaggio verso la crescita. Ho con me ai microfoni di America 24 Massimo Gaggi, corrispondente del Corriere della Sera. Insieme abbiamo seguito questi tre giorni di Letta alla Borsa, poi in un incontro con gli investitori da Bloomberg e ieri infine a Columbia University. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Allora Massimo, beh, insomma, un viaggio intenso, direi soprattutto economico, quello del Presidente del Consiglio. Ma sì, moltissimi incontri, un tentativo di presentare un'Italia che può farcela, un'Italia, come ha detto Letta, giovane, dinamica, pronta ad accogliere investimenti. Questo progetto per attirare investimenti italiani, presentare Expo 2015 Milano, la grande mostra universale che dovrà essere un po' il traino di questa ripresa dell'Italia, e però poi appunto è arrivata questa tegola e evidentemente il problema è stato, oltre che istituzionale visto dall'Italia, anche un enorme problema di immagine qui nel momento in cui lui aveva incontrato molti imprenditori interessati, come ha detto, anche a investire in Italia. Ecco, noi non siamo analisti di politica italiana, naturalmente, però in questi giorni ci siamo dovuti occupare di politica italiana e credo che dovremmo riprendere la palla a questo punto per portarla in avanti, perché c'è stato un messaggio chiaro di Letta anche ieri in fondo, e il messaggio è stato questo: attenzione, perché noi stiamo impostando un progetto per la crescita. Se qua dovesse cadere il governo e tutto si dovesse ingolfare, beh, anche il processo di crescita si andrà a ingolfare, anche le riforme andranno a ingolfarsi. Di chi sarà la colpa? Ecco la domanda che io ho per te. Ma insomma, ma il PDL non sta rischiando troppo nell'assumere una linea così dura nel momento in cui poi rischia di trovarsi col cerino in mano se davvero il governo dovesse cadere e la crisi continuare? Non sarà colpa loro, come ha voluto dire Letta? Beh, come hai detto tu, noi siamo analisti economici più che politici. Quello che si capisce da qui è che come è stato detto anche ieri da Letta, c'è un grosso disorientamento in questo partito e quindi probabilmente sono stati fatti anche degli atti senza considerare troppo le conseguenze che ci saranno nei prossimi giorni. Le dimissioni per esempio in massa dei parlamentari sono tecnicamente molto difficili da dare, richiederebbero moltissimo tempo. E quindi è chiaro che se non si è pensato a queste conseguenze istituzionali di questa mossa, figuriamoci se hanno pensato alle conseguenze economiche di lungo periodo di questa mossa. Però visto da qui effettivamente le cose stanno come dici tu, è una situazione delicata nella quale l'Italia si sta lentamente riprendendo, non è più fra i paesi sotto osservazione, non è più un osservato speciale. Per la prima volta c'erano aziende, come ha detto Letta, che erano anche interessate a entrare nel processo di privatizzazione, che dovrebbe essere una delle tre gambe della manovra economica per il 2014, e tutto questo è chiaro che rischia di bloccare tutto. Beh certo, perché nel momento in cui Letta dice beh no, state tranquilli, qui noi stiamo procedendo con delle riforme, vi daremo delle garanzie, e poi la tegola di cui tu parlavi è una tegola che va anche sugli investitori, perché chi deve andare a investire in Italia nel momento in cui si trova davanti a una situazione caotica, perché la situazione è caotica, oggettivamente lo è adesso, nel momento in cui alcuni dei leader della coalizione dicono che in Italia c'è un golpe, voglio dire, si usano dei termini, non so se sei d'accordo, ma che sono ben sopra le righe, diciamo, l'investitore americano come reagisce davanti all'idea di un golpe? Non lo so, che dici? Vabbè, ma è ovvio, è una terminologia, una fraseologia assolutamente inaccettabile. Lo stesso Letta ha detto che in Italia c'è ancora uno Stato di diritto, non c'è nessun golpe, e in effetti non si potrebbe venire qui a sostenere la necessità di stabilità e uno sforzo di ripresa del paese se ci fosse una situazione di questo tipo. Però è chiaro che ha trovato degli interlocutori in qualche modo sconcertati da tutto quello che sta succedendo. Ho sentito che appunto alcuni di loro hanno parlato nei colloqui con lui di Berlusconi come di una specie di elefante nella cristalleria. Quindi quando si usano questi termini vuol dire che c'è la sensazione anche da parte di persone attive nella politica, ma nel mondo degli affari, che in effetti il disastro politico, istituzionale, giudiziario italiano sta debordando anche nell'economia. Bene Massimo, allora la palla è rientrata in Italia, ma perché l'investitore americano dovrebbe credere alle promesse di Letta quando dice beh queste riforme ci saranno, le faremo entro il 15 di ottobre, nel momento in cui poi c'è un governo così debole e c'è questa responsabilità, se vuoi, di un partner di governo che poi da una parte collabora e dall'altra ostacola? Perché crederci? Beh, vediamo, perché il 15 ottobre ormai è molto vicino e la scadenza della legge di stabilità, la legge che dovrebbe contenere tutto il piano per il rilancio dell'economia nel 2014. Certo, parlarne adesso sembra di parlare di un futuro remoto, tutto sommato qui dagli Stati Uniti siamo in questo momento in un osservatorio privilegiato, perché vedremo se tornerà come dovrebbe il 17 di ottobre, quindi immediatamente dopo per il vertice con Obama. Letta ci ha detto poche ore fa che ha concordato con Obama un'agenda molto fitta per quel vertice, vedremo se ci sarà ancora un governo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandate i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri, grande retrospettiva di Dante Ferretti al MoMA, Museum of Modern Art. Il Presidente del Consiglio è andato a visitare nel contesto dell'anno della cultura italiana degli Stati Uniti anche questa mostra, e dunque a lui vogliamo dedicare questa canzone, a Dante Ferretti, 3 Oscar, un grande record per l'Italia, un film che ha fatto intervista col vampiro, colonna sonora, Sympathy for the Devil, simpatia per il diavolo. Washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.